Gentili ascoltatori e ascoltatrici, eccoci di nuovo insieme. Oggi iniziamo a trattare un tema che svolgeremo in due trasmissioni. Cercheremo di capire cosa intendono affermare i cristiani sostenendo che Gesù Cristo è figlio di Dio. Dato per scontato che i cristiani da secoli credono in un solo Dio, professare che Gesù Cristo è figlio di Dio sembra una contraddizione. Vi chiedo di fare molta attenzione perché il tema non è facile. Prima di entrare in merito, bisogna fare una premessa. Per comprendere un testo è indispensabile capire esattamente il significato delle parole che lo compongono. Percependo correttamente il significato dei termini usati, comprenderemo ciò che il testo vuole comunicare. Nella Bibbia troviamo l'espressione figlio di Dio o figli di Dio quasi 70 volte. È vero che vi sono espressioni molto più comuni, ma l'espressione figlio di Dio coinvolge i cristiani in modo determinante perché è riferita anche a Gesù Cristo, il Creatore, il Salvatore, il Dio dei cristiani. È dunque indispensabile comprendere questa affermazione per non cadere in una interpretazione fuorviante, foriera di una fede illusoria. Poiché l'espressione figlio di Dio è composta di due termini uniti da una preposizione semplice, non è possibile comprendere correttamente l'espressione se non diamo la giusta interpretazione ad ogni singola parola. Esaminiamo il significato di ogni termine. Prendiamo in esame il termine figlio e figli e le sue varie applicazioni. La prima e più immediata applicazione al termine figlio è, come dice il dizionario, il generato rispetto ai genitori. Leggiamo in Genesi 3:16: alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze. Con doglie partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. E ancora, leggiamo in Genesi 6, Noè generò tre figli, Sem, Cam e Jafet. Il termine figlio può riferirsi anche ad un'etnia, ai membri, quindi di un popolo. Infatti in Giudici leggiamo: così Jefte marciò contro i figli di Ammon per far loro guerra, e l'Eterno glieli diede nelle mani. I figli di Ammon, in questo caso, non erano altro che gli Ammoniti. Così pure leggiamo in Genesi 32: per questo, fino al giorno d'oggi, i figli di Israele non mangiarono il tendine della coscia che passa per la cavità dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la cavità dell'anca di Giacobbe, al punto del tendine della coscia. In questo caso si parla degli ebrei. Il termine figlio a volte è riferito alla razza umana, come leggiamo in Genesi 11. Ma l'Eterno discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Inoltre è riferito anche al popolo di Israele, come leggiamo in Esodo 4. E tu dirai al Faraone: così dice l'Eterno, Israele è il mio figlio, il mio primogenito. Il termine figlio a volte si riferisce ad una relazione di parentela, come leggiamo in Genesi al capitolo 46. Questi furono i figli di Rachele che nacquero Giacobbe, in tutto 14 persone. Rachele partorì solo due figli, Giuseppe e Beniamino. Poiché a Giuseppe nacquero due figli e a Beniamino 10, lo scrittore considera figli di Rachele anche i nipoti. Il termine figlio è applicato agli angeli, come leggiamo nel libro di Giobbe. Dove sono fissate le sue fondamenta? O chi pose la sua pietra angolare quando le stelle del mattino cantavano tutti insieme e tutti i figli di Dio mandavano gridi di gioia? Quando l'Eterno riformava il mondo, gli uomini non erano ancora stati creati, per cui il termine figlio si può solo applicare agli angeli. Inoltre, la parola figlio è attribuita agli uomini fedeli dell'Antico Testamento. È così che leggiamo in Genesi capitolo 6.